chiamo. Non dici di fare qualcosa, facciamo qualcosa. Mi è presa la noia. Decidi tu cosa hai voglia di fare. Facciamo qualcosa, ok? Amo, cosa vorresti fare? Andiamo a goderci il panorama, una vita da toglierti il fiato. Ti porto a vedere le nuvole e il cielo infinito. Oppure ti va un hamburger di carne nostrana. Conosco un posto dove vado sempre a Niatana. Mangiamo due panini, anzi esageriamone, ordino tre per te. Se invece vuoi stare a casa, possiamo sempre guardare una serie su Netflix. Ho l'abbonamento condiviso con tuo fratello. Possiamo vedere quello che vuoi. Possiamo vedere quello che vuoi. Possiamo anche andare al mare. Sono trascorsi giorni, forse mesi. Da quando? Da quando? Hey!